24 mattino di Alessandro Milan. 7:21 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9, riparte 24 mattino. Per scriverci gli sms al 349-238-6666, mail 24mattino e radio24.it. Di che parliamo nel nostro sondaggio oggi? Parliamo di quello che sta succedendo all'ONU, l'Assemblea Generale, per discutere gli obiettivi per ridurre la povertà entro il 2015, dimezzare la povertà entro il 2015. Questo è l'obiettivo. Secondo voi si riuscirà? Questo è il nostro sondaggio. Parleremo anche della proposta del presidente francese Sarkozy, che oggi è su tutti i giornali, quella di una tassa sulle transazioni finanziarie per risolvere appunto il problema della povertà e il problema della sete, il problema delle malattie nel mondo. 7:21 minuti, votate su radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30 e ora, come di consueto, iniziamo con la lettura dei giornali in edicola. Eon, luce e gas. Scopri la nostra energia su eon.it. Vi presenta In primo piano. Martedì 21 settembre è decisamente il giorno di Unicredit e del resa dei conti all'interno di Unicredit, e questo è il titolo dell'apertura di diversi quotidiani. Il Sole 24 Ore, Profumo, è il giorno più lungo, Consiglio Unicredit diviso, il forcing dei soci, il CEO che chiede la fiducia. Scontro finale, Profumo verso l'uscita, titola il Corriere della Sera. Mentre Repubblica, guerra a Unicredit via Profumo. Anche la Stampa, Unicredit Profumo a un passo dall'addio, resa nei conti nel Consiglio d'amministrazione. Vedremo gli altri titoli, ma io partirei proprio da qui, perché è appunto il giorno decisivo per la partita di Unicredit. Profumo ai soci, piena fiducia o dimissioni, questa pagina 3 del Sole 24 Ore. Qual è il problema di fondo? Perché magari leggete i titoli, ma non capite che cosa è il motivo dello scontro. Beh, lo spiega bene, oltre al Sole 24 Ore, al quale tornerò, anche il Foglio oggi in prima pagina, dal titolo Unicredit addio, questo è il commento. È stato convocato un consiglio d'amministrazione straordinario dal presidente di Unicredit, Dieter Rampel. Perché? Perché il tedesco Rampel è giunto alla conclusione di non essere stato volutamente aggiornato sulla crescita dei soci libici, che è giunta ormai al 7,6%, il maggiore socio, maggiore azionista di Unicredit, nell'azionariato di Piazza Cordusio. Non solo un difetto di comunicazione per Rampel, ma una vera e propria violazione delle prerogative del presidente. Insomma, il nodo in questione, uno dei nodi chiave, è proprio la presenza del socio di maggioranza, vale a dire la Libia. Oltre a questo, l'accusa di fatto è un eccesso di autonomia da parte dell'amministratore delegato Profumo, di cui il caso Libia è proprio solo l'ultimo tassello. E allora, questo è il tema. Il Sole 24 Ore, Carlo Marroni spiega come si difendono, non che debbano difendersi, ma come spieghino la vicenda i libici, con un comunicato dicendo: non è vero che era stato informato solo Profumo, sapeva tutto anche il presidente Dieter Rampel. Il ragionamento degli ambienti libici è: non siamo stati noi a determinare questo scombussolamento, la questione Profumo è da tempo che i soci la stanno ponendo. E per la verità, sul Sole 24 Ore, a pagina 2, Moria Longo spiega anche come gli arabi in senso lato abbiano ormai nelle big del credito, vale a dire nelle grandi banche, miliardi e miliardi di investimento. Basti pensare a Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS, Citigroup, Bank of America. In alcuni casi, in Barclays per esempio, alcuni investitori del Qatar hanno il 6,76%, il fondo Abdulaziz Al-Ketbi il 5,20%. Insomma, è dal 2008, racconta Moria Longo, quando si è venuta a creare questa situazione con i paesi arabi che avevano un mare di soldi e le banche occidentali che avevano un disperato bisogno di soldi, che gli arabi hanno iniziato a investire nelle big del credito occidentali, e si tratta almeno di 21 miliardi di euro che ora si trovano in azioni, ovviamente, nelle grandi banche occidentali da parte dei fondi arabi. Sul Corriere, su Repubblica, viene dato ormai quasi per certo le dimissioni di Profumo. Sul Corriere della Sera, l'amarezza del banchiere, vogliono mandarmi via, una frase intercettata domenica al funerali della moglie di Salvatore Ligresti: mi mandano via. così, poche parole, poi analizzata in un articolo di Paola Pica, la giornata ieri di Profumo, che non cede alla tentazione di rassegnare le dimissioni, ma viene raccontato come un uomo che sta vivendo una forte amarezza per essere trattato così dopo 15 anni. E così anche su Repubblica il banchiere si sfoga coi suoi manager: sono scomodo, non faccio parte del sistema. A pagina 3 il racconto di Giovanni Pons con Profumo che... Avrebbe detto un banchiere vicino a Piazza Cordusio. Il primo a sapere che i libici volevano prendere una posizione importante della banca è stato proprio Rampel, vale a dire il presidente, e anche Palenzona sapeva per via governativa o diplomatica. Insomma, qualcuno dice non è vero che sapesse solo Profumo, e comunque, come dice Profumo, nel momento in cui l'ho saputo, a quel punto ero vincolato anche dal segreto, la legge Draghi, di non rivelare nulla. Sta di fatto la legge, l'articolo 134 della legge Draghi, che prevede risvolti penali per chi rivela all'esterno informazioni privilegiate. Sta di fatto che Rampel non è un esterno, e quindi forse si è adombrato il presidente perché non è stato informato. È stato informato oppure no? Questo è il giallo. Sta di fatto che oggi pomeriggio, consiglio di amministrazione straordinario, ci sarà appunto questa resa dei conti, con il Foglio in prima pagina che conclude anche: in caso di dimissioni, a differenza delle vociferate dimissioni dello scorso 13 aprile, o meglio minacciate, in molti avranno trovato un'alternativa. Cioè il Foglio dice: ci sarebbe già pronta un'alternativa. Chi è? Giovanni Auletta Armenese. In primo piano. Alle 7:35 minuti riprendiamo la lettura dei giornali, ripetendo che oggi è il giorno più importante per Unicredit. Su questo aprono molti giornali, ma è anche un giorno importante per la politica. E tutti gli occhi, per capire quello che è la politica di questi giorni, e bisogna fare un po' fatica per cercare di orientarsi, di leggere quello che sta succedendo negli ultimi tempi della politica, tutti gli occhi sono oggi sulla Sicilia. Che cosa sta succedendo oggi in Sicilia? Il presidente Lombardo, che è stato eletto nel centrodestra 2 anni fa, presenterà una nuova giunta, il Lombardo 4, come definito a pagina 12 del Corriere della Sera, una nuova giunta siciliana, solo che Lombardo ora dovrebbe essere appoggiato dal PD, dall'UDC, fedele a Casini, perché poi ci sono anche quelli dell'UDC che si sono staccati da Casini o pronti a staccarsi da Casini, dall'API di Rutelli e dai Finiani. E dunque una nuova giunta siciliana, davvero, che anche la stampa scrive va in scena la prova generale dei due nuovi schieramenti. Oggi nasce il Lombardo Quater con il sì del PD. Cioè, ripeto, Raffaele Lombardo, del Movimento per l'Autonomia, che è stato eletto nel centrodestra, ora si presenta, visto che sono stati complicati perdite di maggioranza, si presenta con un nuovo tentativo di giunta che dovrà essere sostenuto non più dal centrodestra, ma dal PD, dall'UDC fedele a Casini e dall'API di Rutelli. Tanto che il Riformista in prima pagina titola così: ribaltone alla siciliana. E si chiede al Riformista: ora succede a Palermo, domani tocca a Roma? Ecco perché tutti gli occhi sono puntati sulla Sicilia, perché qualcuno vi vede un tentativo di primo esperimento di quelle che potrebbero essere nuove maggioranze, nuovi orizzonti della politica anche da esportare in Italia. Rita Borsellino, la sorella del magistrato ucciso dalla mafia, a pagina 6 sul Fatto Quotidiano fa un'intervista a Giuseppe Lo Bianco molto dura, a dire: Lombardo ha detto tutto e il contrario di tutto. Rita Borsellino che boccia la partecipazione del PD appunto al nuovo esecutivo del governatore della Sicilia. Sono scettica, non mi pare che siano stati raggiunti i necessari equilibri. Su Lombardo: è un uomo politico su cui non si può fare affidamento, credo di essere sempre stata coerente, non si può fare un patto di governo con un interlocutore così. E che ci sia molta attenzione alla Sicilia lo dimostra anche il fatto, per esempio, che in Sicilia ci sono quegli UDC scontenti che vorrebbero staccarsi da Casini, perché avrebbero manifestato l'intenzione di appoggiare Berlusconi quando Berlusconi si presenterà il 28, martedì prossimo dunque, alla Camera per il famoso discorso nel quale chiederà anche i voti di maggioranza e per il quale deve ottenere 316 voti. Spero che stiate seguendo il filo di questo momento difficile della politica. Totò Cuffaro è una delle persone che è considerata in distacco dalla linea dell'UDC di Casini. Totò Cuffaro che però non parla da tempo. L'ha intercettato il Corriere della Sera in qualche breve frase: la mia vita è là, dice in un soffio al telefonino Salvatore Cuffaro, detto Totò, e aggiunge: delle vicende politiche in questi giorni non mi occupo proprio. La sua vita è là, cioè ai due processi nei quali è coinvolto: favoreggiamento alla mafia con condanna in primo grado in appello a 5 anni e poi 7, e concorso esterno in un'associazione mafiosa ancora da giudicare. Totò è afflitto, dicono gli amici, mi fa quasi tenerezza, testimonia Calogero Mannino. Di lui Casini 2 giorni fa ha detto: è un personaggio, lo avrebbe definito, è un personaggio scomodo, anche se nell'intervista al Fatto Rita Borsellino dice: ma come, Casini dice che adesso Cuffaro è scomodo? Dopo la condanna che ha avuto, l'ha candidato al Senato, ricordiamocelo. Totò Cuffaro però non parla di Casini, ha detto un paio di giorni fa: prego anche per lui, una delle sue scarsissime parole pubbliche 4 giorni fa. Certo, Cuffaro, sedendo al Senato, sarà anche una persona che voterà, e quindi bisognerà capire se fa parte appunto degli UDC che si staccano dalla linea casiniana. Certo, tutta l'attenzione dunque è sulla Sicilia, dove in Sicilia appunto il presidente Lombardo sta cercando di mettere, eletto col centrodestra dopo 2 anni, sta cercando di ottenere ora una maggioranza con l'appoggio invece di PD, casiniani, api di Rutelli, finiani, dunque un vero e proprio ribaltone, cioè cercare i voti da quelli che 2 anni fa erano contro di lui. Succederà anche a Roma? Chissà, tanto a Roma tutti sono appunto pronti e alla conta, una settimana manca ormai a questo discorso di Silvio Berlusconi. Per Libero Silvio offre 7 posti di governo. Gianluca Roselli a pagina 4: Berlusconi è al lavoro per ottenere i 316 voti di fiducia, cioè quei voti che garantirebbero una maggioranza anche nel caso di voto contrario dei finiani. La quota va raggiunta a tutti i costi o sarà una vittoria di Fini e Casini. E per questo starebbe proponendo anche per la caccia ai nuovi adepti. Il Cavaliere ha messo in campo tutte le frecce al suo arco, racconta Libero. Il posto di ministro allo sviluppo economico, intanto, che sarà deciso dopo il 28 settembre e che è ovviamente, sapete, vacante, insomma, è proprio l'interim di Berlusconi dopo le dimissioni di Scajola, e così come 2 posti da viceministro, 4 da sottosegretario, giusto per far venire l'acquolina in bocca a qualcuno. Però forse non bisognerà attendere 8 giorni, ma già domani sarà un giorno importante, perché domani si giocherà una partita importante sulla richiesta di da parte della magistratura di avere le intercettazioni che riguardano Nicola Cosentino. Nicola Cosentino è l'ex sottosegretario all'economia che si è dimesso, è indagato per concorso esterno in associazione camorristica. Domani alla Camera si voterà se concedere il sì all'autorizzazione per avere le intercettazioni. Ebbene, sappiate che dai giornali i finiani hanno già deciso che voteranno col PD e dunque con l'opposizione. Repubblica: Cosentino, i finiani votano col PD sì all'utilizzo delle intercettazioni. È Fabio Granata che dice: coerentemente con la nostra battaglia sulla legalità voteremo sì insieme all'opposizione. Ed ecco dunque il primo punto importante di possibile scontro. Secondo Liana Milella su Repubblica c'è l'ira del Cavaliere contro Fini. Ora dovrò sacrificare di Nicola, cioè Nicola Cosentino, perché Berlusconi avrebbe convocato qualche giorno fa Nicola Cosentino a dire: guarda, non possiamo andare sotto in questa votazione, e dunque la mossa da parte di Cosentino sarebbe questa: lui stesso chiederà che venga dato il sì all'autorizzazione ai magistrati a usare le intercettazioni che lo riguardano, contenute nell'inchiesta di Napoli. Questo sarebbe così gli avrebbe detto Berlusconi: ti devi sacrificare anche stavolta, devi essere tu a chiedere che si voti sì sulle intercettazioni, perché ai finiani questo regalo non glielo possiamo fare. Alla prima prova già dimostrano di essere inaffidabili, ma io il governo non lo butto via così. E dunque sarebbe questa la mossa per spiazzare e dire: Di tu, caro Nicola Cosentino, che sei d'accordo a votare sì, e dunque risolviamo il problema. Insomma, questo ginepraio della politica, se vi siete orientati, vuol dire che siete molto attenti, anche attenti lettori di giornali, perché è davvero un momento in cui non si capisce bene chi sta con chi. È un grande momento di movimenti anche tra schieramenti. Chi continua le proprie battaglie anche ieri, nel giorno in cui Napolitano ha ribadito l'unica capitale basta ombre è Roma, nel giorno della commemorazione della presa della breccia di Porta Pia. Chi invece continua queste battaglie molto strenue è la Lega. Ancora Zaia, in due interviste, sia Repubblica che Corriere, dice: noi andiamo avanti sulla nostra linea, sui ministeri per esempio e altre capitali la Lega va avanti. Luca Zaia, governatore del Veneto, parla, prendo un'intervista al Corriere, ma su Repubblica sostanzialmente dice le stesse cose. Napolitano ha il dovere di difendere la Costituzione, dice Zaia, ma il Parlamento ha il diritto di modificarla, di metterla al passo degli stati più avanzati come Regno Unito, Germania, Olanda. Per esempio, il trasferimento dei ministeri. All'obiezione, guardi, ma non era nei programmi. Non è che si debba fare solo quello che c'è nel programma. Sul federalismo abbiamo visto governatori come Polverini o Caldoro accettare la sfida. Sui ministeri credo che troveremo molti alleati. Ma mi scusi, l'inno, il tricolore, le capitali reticolari, non ci sono problemi più urgenti, Zaia? A noi non interessa la provocazione, siamo gli interpreti di una volontà del popolo che chiede decentramento, catene decisionali più corte, rispetto delle comunità. Non mi scandalizza che per ricordare questi temi fondamentali si individui anche qualche tema, è il caso di dirlo, di bandiera. E siccome c'è confusione in politica, sapete chi è contro la Lega in questo momento in maniera molto dura? Il ministro PDL dell'Agricoltura Galan. Se mi tolgono il Ministero dell'Agricoltura e mi dicono che mi fanno un favore, lo dichiaro fin da ora. Non l'ho chiesto io. Io vado d'accordo con la Lega? Bah, con molti leghisti come Giancarlo Giorgetti ho un buon rapporto. È Galan che fa un'intervista a Repubblica. Con altri meno. Beh, qualcuno si è arrabbiato perché ho criticato qualche spesa fatta dal mio predecessore Zaia. Pagare 6 milioni di sponsorizzazione all'Italia perché sui voli intercontinentali distribuisca un menù italiano è un po' esagerato, non trova? E poi, al ministero, a lei ha cambiato i tappeti verdi, ho fatto rimettere quelli rossi, ma nessuno mi accuserà di essere un comunista. E le liti con Bossi, non è vero che in Consiglio dei Ministri mi toglie la parola. Insomma, ma coi leghisti come va? Non mi invitano mai, nemmeno per un aperitivo. Insomma, questo è Galan che dice: se mi tolgo il Ministero dell'Agricoltura sappiate che qualcuno, e non la manda a dire, la Lega, me ne vuole male. Questa politica è così, teniamocela stretta perché non possiamo fare altrimenti. In primo piano. E per il resto, Giornale Libero continuano la campagna contro nell'inchiesta per capire la casa di Monte Carlo e Fini. Oggi la puntata più spettacolare di questa è su Libero, a pagina 6. Ricordate che Libero qualche giorno fa ha letteralmente inseguito, ha intercettato Giancarlo Tugliani, vale a dire il cognato di Fini, l'ha intercettato su una Mercedes, l'ha inseguito, no? Ho raccontato anche l'inseguimento in motorino della cronista Roberta Catania, che oggi cosa ha fatto? Ha preso la targa di Tugliani e mistero dei misteri. Tugliani viaggia su una Mercedes con targa tarocca. Questo è il titolo di Libero, perché hanno fatto le ricerche al PRA, al pubblico registro automobilistico, questa targa non risulta nella banca dati. Il mistero della targa di Tugliani. Scrive Libero, neanche gli 007 viaggiano su macchine non registrate. Al limite, nel caso degli 007, il PRA risponderà che rimanda tutto a una società di noleggio auto. Il mistero. Tugliani viaggia su una macchina, secondo Libero, con una targa inesistente, non registrata. Non c'è neanche molta novità se inizia una stagione di TV, di talk show, sono già iniziate, ora inizia anche Anno Zero, domani la presentazione ufficiale di Michele Santoro, ci sono già le polemiche perché Masi, il direttore generale della RAI, ha fatto il nuovo codice, ormai è appurato, il codice nel quale il pubblico non può applaudire, lo abbiamo già visto, poi non deve essere messa in luce nessuna parzialità del conduttore, che deve mostrarsi terzo e imparziale, le interviste ai partecipanti devono essere realizzate in sequenza di contraddittorio, assicurando a ciascun ospite lo stesso tempo di parola. Insomma, ve lo vedete, Michele Santoro che deve rispettare, che il conduttore deve mostrarsi terzo ed effettivamente imparziale. Questo secondo il nuovo codice per i talk show messo a punto dal direttore generale della RAI Masi. Chi appoggia di più Santoro, e questo avevano detto un paio di giorni fa, l'ho letto da qualche parte, c'è un endorsement ormai dei finiani, è Il Secolo d'Italia, che ormai è diventato il quotidiano non più del Popolo della Libertà, perché hanno tolto dalla testata questo, ma ormai è il quotidiano dei finiani, ed è subito emergenza anno zero. Questo è il titolo di apertura di prima pagina, con la facciona di Michele Santoro, Masi che è detta il vademecum per il tentativo di definito una circolare bavaglio in vista di anno zero. Staremo a vedere. Mancano due giorni, allacciate le cinture, riparte anno zero. Allarghiamo un po' i nostri orizzonti e le nostre menti, cercando di andare a capire quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi. All'Assemblea Generale dell'ONU, mentre qua discutiamo di Santoro e di ribaltoni, si sta discutendo con tutti i capi di Stato del mondo, con tutti i paesi del mondo, si sta discutendo di come cercare di ridurre o raggiungere i cosiddetti obiettivi del millennio, cioè cercare di sradicare o meno ridurre, dimezzare la povertà, le malattie, le soglie di povertà entro il 2015 nel mondo. La proposta shock è venuta da Sarkozy, che ha rilanciato la Tobin Tax contro la povertà, lo leggiamo a pagina 12 del Sole 24 Ore, una tassa sulle transazioni finanziarie per cercare di vincere questa sfida, una posizione che è stata anche sottoscritta da Zapatero per la Spagna, anche se sarà difficile superare le resistenze di Washington e Londra. È il tema tra l'altro del nostro sondaggio, dimezzare la povertà entro il 2015, secondo voi un obiettivo raggiungibile? Questo vi chiediamo, votate su radio24.it, anche in prima pagina del Foglio c'è al summit sulla povertà, Sarkozy canta più forte degli U2 contro le banche. Di Pajeto ne parleremo alle 8.30, anche il manifesto vi dedica una pagina con un intervento anche di Raffaele Salinari, che è il presidente di Terre des Hommes, una delle tante ONG presente a New York. Chiusura solo per dire la notizia del giorno, sulla quale tutti secondo me sono d'accordo: Tanzi, Calisto Tanzi, è diventato un ex cavaliere. Pagina 23 del Corriere: è stato tolto il titolo di cavaliere al merito del lavoro che aveva dal 1984 da Sandro Pertini per una motivazione: indegnità. Questa è la motivazione ufficiale della revoca dell'onorificenza col presidente Napolitano, che ha firmato il decreto accogliendo la proposta del ministro dello sviluppo economico, cioè Silvio Berlusconi di fatto, che lo regge ad interim. Calisto Tanzi, per indegnità dopo il crack, non è più cavaliere al merito del lavoro. Beh, insomma, come non sottoscrivere. 24 mattino. L'intervista. Alle 8.22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Buongiorno, avvocato Rienzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, oggi si gioca, chi vuole, il Super Enalotto, e sono 142 milioni, il montepremi più alto del mondo. Perché ce l'avete tanto col Super Enalotto? Ma non è che ce l'abbiamo il Super Enalotto, che è anzi uno dei giochi meno pericolosi sostanzialmente. Il pericolo del Super Enalotto è insito nel fatto che, aumentando così tanto il jackpot, avvicina al gioco milioni di persone che non ci penserebbero minimamente di mettersi a giocare, tra l'altro con probabilità di vincita pari quasi a zero. E questo cosa comporta? Comporta che, essendo di una percentuale stabile, fissa, di poi malati di gioco su quanti giocano, aumentano i ludopatici, quindi è un problema grave, sociale, che in prospettiva ci deve preoccupare. Cioè, le dice, ci sono molti italiani che si rovinano così, però il Super Enalotto in genere sono le giocate minori, no? Chi fa la schedina da pochi euro, pochi spiccioli. Sì, ripeto, non è il gioco del Superenalotto il problema, perché lo è molto di più il poker online o le slot machine. Ma se noi siamo passati da 9 a 15 milioni e complessivamente a 35 milioni di italiani coinvolti nel gioco, è dovuto molto proprio a questo jackpot enorme che illude la gente. E siccome c'è una percentuale, ripeto, che va dallo 0,6 al 3% sicura di giocatori che poi si ammalano, cioè vanno a finire male con il gioco, aumentando il numero complessivo dei giocatori anche con piccole giocate da un euro, c'è il rischio che poi da lì si passi ad altri giochi, alla slot machine, c'è, sì, il rischio, c'è la certezza, e quindi c'è questo grosso rischio sociale. Allora, io so che siete stati convocati oggi dalla CISAL, dai Monopoli di Stato, perché avete posto queste problematiche e vorrete portare delle proposte, cioè che cosa, per esempio, che proposte farete sul Superenalotto? Ma noi abbiamo chiesto un incontro perché naturalmente è stato subito dato, quindi oggi noi ci vedremo con il direttore generale degli affari dei monopoli e la CISAL, perché riteniamo che si vada verso una situazione insostenibile. Cioè, immaginiamo che questo jackpot non esca per altri 2-3 mesi, arriviamo a 300 milioni di euro, cosa molto probabile perché, ripeto, essendoci una probabilità su 622 milioni che esca il 6, se esce è un'anomalia, cioè non è un'anomalia quando non esce. E vabbè, queste sono le statistiche del gioco. Allora, però noi abbiamo detto, mettiamo un tetto, come fu messo nel 99 da un governo che c'era allora, e un tetto anche alto, voglio dire, anche 100 milioni di euro. La gente quindi gioca, arrivati a 100 milioni di euro, il di più, invece di aumentare il 6, si spalmi sul 5, sul 4 e sul 3. Non è che diminuiscono i giocatori in senso, cioè diminuisce la febbre del gioco, perché anzi ci sarà più piacere a giocare pensando che col 3 si vince qualche cosa in più. Perché dice, è immorale pensare, secondo lei, di vincere, che ne so, 140 milioni una persona in Italia? No, non è immorale, a parte che è un guaio per chi lo fa, perché se non è uno ricco già che è capace di investire 140 milioni, sì, un vero guaio. Quello siamo d'accordo, è un guaio. Io 140 milioni non saprei che farmi. Appunto, cioè, se lo vince uno che è già ricco non ha problemi, se lo vince un povero, secondo me si è rovinato la vita. Ma non è un problema di immoralità, è un problema che alzando questo jackpot io non penso al vincitore, del quale, voglio dire, non mi importa granché, mi fa piacere per lui. Penso agli altri 9, 10, 12, 13 milioni di persone che ogni due giorni vanno a fare questa tassa, a pagare questa tassa, che complessivamente sono miliardi di euro che passano dalle tasche della povera gente a qualche altra tassa. Ma lei, Rienzi, cosa che fa? Tarpa i sogni degli italiani, insomma. No. No, i sogni possono esserci e ci devono essere, il gioco deve essere un sogno, ma a parte che il gioco non è un gioco se è improbabile sempre vincere al 99,9%, ma poi sognare non deve significare esagerare, cioè dal sogno si passa alla malattia altrimenti, si passa alla frenesia, al vendersi. Noi abbiamo casi, perché abbiamo un ente che con noi si occupa di malattie compulsive, di gente, la famiglia, che ci scrive rovinata dal figlio che si è venduta la macchina, che ha fatto i debiti, che è andata in mano agli usurai, perché questo non lo dimentichiamo, questo tipo di gioco, sì, che poi porta la gente a giocare ogni volta di più per recuperare la possibilità, la probabilità, porta moltissimi, soprattutto al sud, nelle mani degli usurai, nelle mani della malavita. Ma dica la verità, ma lei lo gioca il Superenalotto? Mai giocato? Ogni tanto, certo che lo gioco. Lo gioca, un euro. Non sempre, no. Quando capito dal tabaccaio, non so che fare, sto facendo un'altra cosa, comprando una macchinetta a mio nipote, dico, ma fammi giocare il Superenalotto. Ma so che è una cosa del tutto, quasi del tutto inutile, e cioè a me è una forma, ma non mi avvicino però ad altri giochi, perché sono sano di mente. Sarebbe la notizia del giorno, Rienzi che vince 140 milioni. Pensi un po'. In bocca al lupo, ovviamente. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie per essere stato con noi. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che vuole proporre e oggi andrà a proporre qualcosa per cercare di dire, insomma, questo Superenalotto forse è un po' troppo, questo Montepremi. Allora, ci fermiamo per pubblicità e meteo. Dopodiché parliamo del nostro sondaggio, parliamo di quello che sta succedendo all'ONU, l'obiettivo dimezzare la povertà entro il 2015. Sarkozy ha anche detto mettiamo una tassa sulle transazioni finanziarie. Quello che vi chiediamo è: secondo voi l'obiettivo è raggiungibile? Votate su radio24.it oppure chiamateci 800 24 00 24. Parleremo anche dei metodi, parleremo di Bono che ci dice che, cari italiani, siete sempre quelli che pagate meno. 24 mattino. Alle 8.34 minuti, eccoci qui dunque a parlare del nostro sondaggio, di quello che sta avvenendo all'ONU, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con tutti i capi di Stato del mondo, vuole parlare dei tentativi per ridurre i cosiddetti Millennium Goals, ridurre i problemi come la fame del mondo entro il 2015. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Dimezzare la povertà nel mondo entro il 2015, questo è l'obiettivo che vi chiediamo. Secondo voi è raggiungibile? Prevale lo scetticismo, come è prevedibile. L'80% di voi, per il momento il 77% della verità, dice di no. Ma insomma, a me interessa anche capire quali sono gli strumenti, perché c'è grande dibattito sugli strumenti, per esempio aiuti internazionali in denaro, come chiede Jeffrey Sachs, il massimo economista che si occupa di questo, consulente di Obama, oppure i soldi non servono. E ancora, mobilitazione oppure no? La tassa sulle transazioni finanziarie che ha proposto il presidente Sarkozy è una cosa valida, la cosiddetta Tobin Tax, oppure è una cosa che non funziona, è una soluzione che secondo voi non è una soluzione adottabile? Ne vogliamo discutere con il professor Enrico Colombatto, che saluto, dirige il Centro Internazionale di Ricerca Economica a Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Voglio salutare anche Vittorio Agnoletto. Buongiorno Agnoletto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. È stato anche europarlamentare, portavoce del Social Forum, oggi è medico, da sempre impegnato, da tanti anni, nella lotta all'AIDS, questo credo che sia proprio poi la sua matrice di vita, da sempre. Allora, professor Colombatto, io partirei proprio per entrare nei piedi nel piatto sulla proposta Sarkozy. Ieri leggevo su un giornale questo dato: ogni giorno nel mondo muoiono 22.000 bambini di varie fame, malattie, eccetera, e per contrastare, secondo alcuni, queste morti, basterebbe una modesta frazione dei capitali che si scambiano in un'ora in borsa a Wall Street. Che ne pensa di quello che ha detto Sarkozy? Bah, sicuramente se si prendono dei soldi e si costruiscono ospedali e se li fanno funzionare, probabilmente si riuscirebbero a salvare milioni di vite umane. Teniamo però presente che probabilmente quei soldi, ammesso che la Tobin Tax sia fattibile, andrebbero a finire nelle mani di coloro che hanno utilizzato e sprecato soldi per decenni. Teniamo presente che oggi come oggi circa metà degli aiuti internazionali, che non sono molti, vanno a finire a finanziare il debito dei paesi in sviluppo, vanno a finanziare le spese di militari di molti di questi paesi e giustamente vengono anche impiegati malamente nelle operazioni di soccorso a fronte di catastrofi naturali. Quindi forse lei dice non è la soluzione più soldi, o meglio più soldi fine a se stesso, ma controllare anche a chi vadano questi soldi. Però come si fa? Mica possiamo andare a cambiare ogni paese per cercare di vedere che vadano nelle mani giuste. Ma guardi, proprio per citare uno dei coloro che attualmente vanno per la maggiore, il famoso Bono, Bono stesso riconosce che il maggior problema nell'aiutare questi paesi sono i governi stessi di questi paesi, corrotti, che utilizzano questi fondi per tutt'altri scopi. Non dimentichiamo che molte organizzazioni internazionali, ONU compresa, sprecano malamente. A lei non è simpaticissimo Bono, so. No, per queste battaglie, voglio dire. Il problema non è tanto denunciare le carenze e denunciare i disastri e denunciare i 22 milioni di bambini che muoiono, che sono una cosa effettivamente dolorosa e raccapricciante per un mondo industrializzato. Tutti sappiamo che questo mondo non funziona, tutti sappiamo che questi soldi vengono sprecati. Non è andando a dire guardate quanta gente muore in giro che si risolvono i problemi. Bono non ha offerto neanche una soluzione. Allora, Vittorio Agnoletto, lei che ne pensa della proposta Sarkozy? È una pazzia irrealizzabile oppure è un qualcosa che potrebbe mettere qualche toppa per risolvere queste problematiche? Sarkozy prende la proposta della Tobin Tax, che nacque proprio attraverso il Forum Sociale Mondiale, la lanciamo nel 2001, quindi io sono assolutamente d'accordo. Se la tassazione sulle transazioni finanziarie fosse anche solo dello 0,05%, che è la media tra le diverse proposte, otterremmo all'anno 655 miliardi di dollari. Non è una cifra irrisoria, credo che potrebbe essere estremamente utile. E consideriamo che di fronte a un PIL mondiale di 67 mila miliardi di dollari, oggi noi abbiamo fuori dal bilancio, cioè fuori dal bilancio formale delle banche, 1,5 milioni di miliardi di dollari, cioè stiamo parlando dei derivati finanziari. Quindi la tassazione sulle transazioni finanziarie, oltre che essere utile, è un atto di assoluta giustizia. E poi però questi soldi, anche, dice il professor Colombato, che facciamo? Dove vanno? Vanno a ingrassare quei regimi non democratici che già ci sono in gran parte anche purtroppo del mondo? Quello che dice il professor Colombato è una parte della verità. Facciamo degli esempi: Burundi, Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambico, Tanzania e Uganda, attraverso gli aiuti internazionali, sono riusciti ad abolire le tasse scolastiche. Nel 2006 in Bangladesh c'è stata una campagna di vaccinazione contro il tetano che è stata realizzata grazie ad aiuti internazionali. Allora non è vero che tutti gli aiuti internazionali non sono utilizzati o vengono sprecati. C'è un problema dei governi corrotti in Africa. Allora ci sono alcune strade che si possono utilizzare per ridurre questo problema. Certo, non riusciamo a risolverlo, non possiamo andare là a cambiare governi, ma possiamo ridurlo. Primo, gli aiuti possiamo farli arrivare attraverso un intervento diretto sulle ONLUS, sulle ONG internazionali, ma con un controllo poi sull'ONG. Questo dovrebbe essere anche il ruolo delle agenzie dell'ONU, andare a verificare come i fondi dati alle associazioni internazionali vengono utilizzati. Secondo, non dimentichiamo che quei governi corrotti spesso sono i principali partner dei governi europei negli accordi commerciali legali e illegali, perché per esempio la vendita di armi avviene dove? Che le va a vendere le armi? Insomma, alla fin fine dice la colpa è sempre nostra. No. Quella sarebbe una malarità. Io dico che anche noi abbiamo una parte di responsabilità. Molti di quei governi corrotti fanno affari con l'Europa, con gli Stati Uniti. La questione del commercio delle armi, dove l'Italia purtroppo occupa un ruolo importantissimo, ne è una dimostrazione. Allora, chiudiamo quei rubinetti, attiviamo diversamente i rubinetti dell'ONG, controlliamoli da parte dell'ONU e poi per favore cancelliamo il debito. Questa è una battaglia di Bono, per esempio, di Bono e di molti. Ma insomma, il debito, dico solo questo, il debito oggi dei paesi del sud del mondo è di oltre 3.700 miliardi di dollari, nel 2000 era di 2.100 miliardi di dollari. È evidente che con un debito così alto che continua a crescere, gli aiuti che noi diamo servono solo per pagare in gran parte gli interessi di quello stesso debito verso le nazioni occidentali. Allora, professor Colombato, due domande le voglio fare. Questa della Elimi, dopo da economista che studia, cancellazione del debito, che è un tema sul quale molto si dibatte, c'è chi dice che è una cosa da fare subito, c'è chi dice che è una cosa sbagliata anche culturalmente, anche dal punto di vista del non incentivare poi i paesi a mantenere rapporti commerciali giusti. E la seconda è questa: visto che lei dice i fondi vanno poi a paesi in alcuni casi corrotti, allora fa bene l'Italia ad aver promesso lo 0,7% del PIL e ad aver dato penultimo paese donatore al mondo, peggio di noi credo che ci sia solo un altro paese, lo 0,19% del PIL? Partiamo dal fondo, le promesse vanno mantenute, quindi se non abbiamo promesso lo 0,7, abbiamo promesso, dobbiamo mantenerlo. Il guaio è che noi quello 0,7 lo diamo a agenzie internazionali, anche nazionali, che poi i soldi li sprecano, quindi sarebbe molto meglio spendere quei soldi dando alla gente che li fa funzionare. Io non so se la soluzione ONG sia una soluzione praticabile, e i controlli non credo che siano sarebbero molto più efficaci di quanto non siano stati in passato. Comunque sicuramente qualunque risorsa venga utilizzata non va più data a gente che lo spreca, che li spreca, e questo è quello che è stato fatto fino adesso. E per il debito invece? Ma guardi, se mi permette, le sfide del millennio, quelle a cui lei faceva riferimento in passato, in parte sono state risolte grazie, in termini numerici, ai progressi di Cina e India. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente la povertà si risolve con la crescita, non con l'elemosina. Se noi, paesi industrializzati, aprissimo le nostre frontiere alle merci di questi paesi, azzerassimo la politica agricola comunitaria, gli Stati Uniti facessero altrettanto per conto loro, daremmo delle possibilità di crescita ai paesi anche dell'Africa, e le assicuro che la crescita cura la povertà molto meglio delle morti. Ma scusi, lei, azzeriamo sì, la politica agricola comunitaria, vada a Bruxelles a fare questa battaglia, la prenderanno a bastonate. Perfettamente ragione, però non siamo ipocriti, non diciamo che risolviamo il problema con l'elemosina. No, questo sì. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, il 77% di voi sempre è scettico, no? Non si raggiungeranno questi obiettivi di dimezzare la libertà. Prima sorridevo anche perché, voglio dire, uno dei più strenui difensori della politica agricola comune e comunitaria, che impedisce appunto al libero mercato, per esempio con i mercati comuni, con i mercati africani dal punto di vista agricolo, è proprio la Francia, no? Quella di Sarkozy, che però dice ora mettiamo la tassa sulle transazioni finanziarie. Allora, sentiamo due ascoltatori. Claudio da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io ascoltavo la vostra trasmissione, le riflessioni di base sono queste. Io ho 50 anni, saranno 35 anni che sento parlare della risoluzione della fame nel mondo, come tanti altri grossi problemi che sono degli ottimi cavalli di battaglia, ma purtroppo a mio parere sono cavalli che non vanno oltre il recinto in cui nascono, vivono e muoiono. Perché? Uno, ci sono chiaramente delle incapacità a livello governativo di gestire delle risorse. Due, ci sono delle grosse responsabilità a livello governativo di queste nazioni, perché fondamentalmente mangiano sulle spalle della povera gente. Quindi lei dice, da quando sono nato che la sento e non si è mai fatto nulla, no? Ma non è proprio così, Claudio. Tra poco leggerò qualche dato sul Foglio. Capisco che dice non è che si può cancellare la povertà e la fame nel mondo, questo sì, ma molti progressi sono stati fatti, sono certificati dalle cifre. Comunque, Marco, la ringrazio. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Ma niente, volevo intervenire relativamente alla parte dell'intervento del professor, non ricordo, Colombatto. Come, scusi, Colombatto. Sì. Relativamente al fatto che il tema di aprire i mercati del terzo mondo, diciamo così, è un tema fondamentale. Male fa Sarkozy a far passare tutto tramite interventi come la Tobin Tax, che di fatto, secondo la sua visione, sicuramente sarà una tassa di gestione Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, quindi sostanzialmente di nuovo fondi in mano ai grandi tenutari di queste delle politiche che hanno portato poi a questo sfacelo. Quindi in questo senso mi sento molto vicino alle posizioni che ha espresso anche poc'anzi Agnoletto, perché alla fine il problema è di carattere etico. Di carattere etico, però io vorrei la ringrazio, vorrei sottoporre questi dati del Foglio anche ad Agnoletto. Allora, oggi il Foglio scrive: in realtà nell'ultimo decennio la povertà estrema si è ridotta significativamente. Nei paesi che un tempo erano terzo mondo emerge la classe media di centinaia di milioni di consumatori, soprattutto India e Cina, come diceva il professor Colombatto. Il tasso di povertà globale è calato del 40% dal 90 oggi e continuerà a scendere dopo la crisi. Il primo e più importante obiettivo del millennio, ridurre della metà la popolazione mondiale il cui reddito è inferiore a un dollaro, dovrebbe essere centrato. Insomma, Agnoletto, non è vero che tutto va malissimo, nel senso, certo, poi ci sbattono in faccia quelle foto, quelle immagini dei poveri bambini che muoiono in Africa e uno dice è tutto un disastro. Non è come dice l'ascoltatore di Brescia, che lo sento da 40 anni ma non si è fatto niente. Facciamo delle differenze. Se noi sottraiamo ai dati mondiali quanto avviene in Cina, la situazione negli ultimi 10 anni nel resto del sud del mondo è decisamente peggiorata. Anche considerando la Cina, sono notizie proprio di oggi, gli affamati, coloro che soffrono di fame, sono aumentati rispetto al 2000 del 10%. Comunque la situazione è migliorata quasi unicamente in Cina e in alcune nazioni dell'estremo oriente. Però c'è un elemento che volevo sottolineare. Attenzione, Io penso che gli aiuti siano necessari con quei criteri che abbiamo dato, saltando i governi corrotti, eccetera, ma dall'altra parte, ed è forse l'unica cosa su cui concordo col professore, dobbiamo modificare le nostre politiche commerciali. Guardi, ci sono degli accordi economici che quasi nessuno conosce, IPA, accordi di partenariato economico che l'Europa vuole imporre ai paesi africani. È molto semplice la logica di questi accordi. Voi paesi africani la smettete di proteggere i vostri prodotti, togliete i dazi, aprite libero mercato ai prodotti europei. Mm-hmm. Nel frattempo noi europei continuiamo a mantenere i sussidi all'agricoltura, che sono i sussidi alle grandi multinazionali agricole europee, che possono così vendere i prodotti agricoli a prezzi stracciati in Africa. No, ma questo infatti è il tema distruggendo, che... ecco, distruggendo l'agricoltura africana. Allora, se si dà un dollaro di aiuto e se ne recuperano quattro con gli accordi commerciali, è evidente che la situazione non migliorerà mai. Però lei ha fatto l'esempio della Cina e il professor Colombatto proprio diceva questo, cioè l'emblema di come la crescita grazie all'apertura di mercati è la soluzione, cioè non l'elemosina. Lei dice perché la via che ha imboccato la Cina, che lei vuole togliere nel conteggio perché dice falsa un po' col conteggio della Cina tutti i dati, perché non la possono imboccare anche gli altri stati? Voglio dire, cioè la Cina è un paese diverso dagli altri? Che la storia dell'apertura dei mercati, così come viene presentata, è pura demagogia, perché, le ripeto, si chiede ai paesi africani di aprire i loro mercati. I prodotti che l'Europa vende in quei paesi sono prodotti che usufruiscono degli aiuti comunitari. Mi faccio un esempio: se una mela in Africa costa 5 e anche in Europa dovesse solo costare 6, ma l'Europa dà 3 di aiuto, mela viene venduta a 4 e distrugge l'economia africana. Sa quanti sono gli aiuti all'agricoltura, intendo alle grandi multinazionali, perché sono queste che vanno a vendere i prodotti nel sud del mondo, non il contadino del Trentino. Io sono d'accordo con l'aiuto all'agricoltura per il mercato interno europeo, ma sa quanti sono gli aiuti all'agricoltura per l'esportazione tra Europa, Giappone e Stati Uniti? Siamo oltre 279 miliardi di dollari. Io vorrei facciamo aprire i loro mercati, poi li andiamo a conquistare. Aumenta la povertà, secondo le Nazioni Unite, con questa politica in un solo anno un paese come l'Etiopia perde 250 milioni di dollari. Professor Colombatto, questa visione la vede un po' neocolonialista, cioè siamo ancora molto colonialisti economicamente su alcuni paesi? Ah, non c'è dubbio, ma il problema l'ha posto bene, Agnoletto. Noi abbiamo due visioni dell'aiuto allo sviluppo: o l'elemosina finanziata attraverso ogni sorta di imposta, compresa la Tobin Tax. I politici sono contenti perché se ne lavano le mani, i politici sono contenti perché cassano i soldi, i burocrati sono contenti perché ci mangiano su. L'altra visione è quella di abolire i sussidi, abolire le politiche protezionistiche, aprire i mercati. Io sono per questa seconda visione. Quelli che si riuniscono in questi giorni a New York sono per l'elemosina. Mi pare che la storia economica degli ultimi 150 anni ci abbia detto che nessun paese si è sviluppato grazie all'elemosina e che tutti i progressi che sono stati fatti sono stati realizzati grazie a imprenditorialità, sviluppo, flussi di capitale. Che poi non funzionerà neanche l'elemosina, perché non passerà. Lei presumibilmente dice che passerà questa proposta di Sarkozy, ma no, cioè, c'è Zapatero che la sostiene, ma voglio dire... Ma non importa, se non passa una tassa ne passa un'altra. Sono 50 anni che ci viene detto... pagate di più perché verranno utilizzati bene, alla fine paghiamo sempre di più e i soldi vengono sempre mangiati da qualcun altro. Va bene, io mi devo fermare qui ringraziando il professor Enrico Colombatto, che voglio ricordare direttore del Centro Internazionale di Ricerca Economica a Torino, e Vittorio Agnoletto per essere stati con noi, grazie davvero. Spero sia stata una discussione interessante su un tema che ci aprirà un po' la mente, poi torneremo a occuparci della nostra politichetta con i nostri ribaltoni in vista. E che dire, grazie anche a Antonella Migliaccio che ritornate in redazione, eccoci qui, e Peter Bescapè, lui l'alpino invece inamovibile qui col suo zaino e la sua penna nera. Allora votate su radio24.it e scriveteci anche se volete 24mattino@radio24.it. siamo qui e ci troviamo domani alle 7:20 più o meno.